Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi il presidente della Commissione europea, Manuel Barroso, ha tenuto il discorso dell'Unione. Sentiamo. Politically, we must not be divided by difference between the euro area and those outside it, between the center and periphery, between north and south. Sta per concludere il suo discorso il presidente Barroso ed è lì che in poche frasi chiude tutto il suo pensiero. Politicamente l'Europa non può essere divisa, deve restare un progetto per tutti i membri, una comunità di uguali. Economicamente ha sempre avuto la funzione di colmare le differenze, deve continuare ad essere così. Solidarietà è la parola chiave e unità, quella che ha permesso al vecchio continente di affrontare la crisi che per 5 anni l'ha attraversata e dalla quale ancora non è venuta fuori, ma ci sono buone ragioni per essere fiduciosi. But it does prove we are on the right track. On the basis of the figures and evolutions as we now see them, we have good reason to be confident. Un anno fa, racconta il presidente, molti banchieri si aspettavano che la Grecia uscisse dall'euro, che la stessa moneta unica crollasse. Oggi siamo più forti e tutti quei paesi sulla cui pelle la crisi ha lasciato i segni più profondi possono dire di aver fatto e di fare tuttora progressi visibili. The current level of unemployment is economically unsustainable, politically untenable, socially unacceptable. La disoccupazione però resta il problema e tutte le forze devono essere spese per ridurla. Anche per questo serve un'unione vera, che ancora non c'è e il capitolo Siria lo dimostra. L'Unione Europea ha led the international aid response by mobilizing close to 1.5 billion euros, of which 850 million euros. L'Europa ha mobilitato molte risorse per i rifugiati, ricorda Barroso, che parla di una responsabilità comune per mettere fine al conflitto. Ma poi anche il presidente non può andare più in là di un auspicio, quello di una soluzione politica che possa portare a una pace duratura, quella che i siriani meritano. The lasting peace that the Syrian people deserve. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tutto questo dunque nel discorso annuale, in questo caso l'ultimo del presidente della Commissione. Sapete, il prossimo dovrà essere indicato per la prima volta dopo le elezioni generali, il Parlamento europeo, il voto in primavera, quindi quelle che coinvolgono tutti noi, per la prima volta dovrà produrre, secondo le nuove indicazioni, il presidente della Commissione europea. Intanto queste sono le giornate della sessione plenaria, quindi il nostro Sergio Nava ci fa un po' il punto su quello che l'Europarlamento ha deciso in queste giornate, a cominciare dalle nuove regole sui mutui. Sentiamo. Stop al rischio subprime in Europa. L'Europarlamento ha dato ieri il via libera alle nuove regole sulla concessione dei mutui, più informazioni sui rischi, protezione sulle fluttuazioni eccessive dei tassi variabili e regole per far sì che in caso di difficoltà nei pagamenti il sequestro della casa ipotecata diventi un'ultima risorsa. La plenaria ha approvato la risoluzione ma ha rinviato il sì al testo legislativo, chiedendo al Consiglio di accelerare i tempi per il recepimento nei singoli paesi. Sempre a Strasburgo, governi e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico sulle nuove regole per prevenire, individuare e sanzionare gli abusi di mercato, e ci sono notizie positive anche sul voto più importante della sessione plenaria in corso, quello sulle attività di supervisione bancaria da parte della BCE, primo tassello dell'Unione Bancaria Europea. Ieri il presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, ha accettato la proposta di compromesso presentata dal presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, in merito alle modalità di controllo parlamentare. L'intesa prevede che la BCE fornirà al Parlamento Europeo, non nelle minute delle riunioni delle Supervisory Board, ma verbali completi delle discussioni, così da consentire una più accurata comprensione delle decisioni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, direi che con questo per oggi è tutto. Vi ricordo solamente, all'inizio della prossima settimana avremo, diciamo, un incontro particolare con il vicepresidente della Commissione europea, la commissaria Viviane Reding. Vi segnalo che vorremmo coinvolgervi in questa intervista. Allora, se avete voglia di porre delle domande a una delle figure principali, appunto, delle istituzioni europee, potete farlo fin d'ora attraverso la nostra pagina Facebook o il canale Twitter di Euronet Plus at Radio 24. E con questo è davvero tutto. In regia Gianmarco Ferronato, da Gigi Donelli un saluto, l'appuntamento è domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.